reportage. Direzione Europa, la lunga marcia di Kiev, di Gigi Donelli. Scambio di prigionieri, interruzioni delle ostilità lungo la linea di contatto in Ucraina orientale, definizione di un accordo per una forma di autonomia regionale nel Donbass occupato. Gli effetti della cosiddetta formula Steinmeier tengono banco nell'opinione pubblica di Kiev a pochi giorni dalla celebrazione degli eventi che attraverso Euromaidan portarono nel 2014 alla crisi militare nell'est e all'occupazione russa della penisola di Crimea. Una crisi innescata dal braccio di ferro intorno all'accordo di associazione Ucraina-UE, firmato, poi sospeso, fino ad innescare una vasta protesta popolare. Kiev ricorda il 21 febbraio come il giorno del sangue, quando nella piazza dell'indipendenza i Berkut, le famigerate unità speciali della polizia di Viktor Yanukovych, spararono per uccidere sui manifestanti. І Зеленський, як виходить з його відповіді, каже, що новий генеральний прокурор України від його політичної сили. Президенте, con oltre il 70% dei voti dal maggio scorso, Volodymyr Zelensky ha da tempo rotto un tabù, dichiarando di essere pronto a incontrare Vladimir Putin, se necessario, se utile, per ricostruire l'integrità nazionale e la pace. Passi di un dialogo a distanza che ha visto nel settembre scorso il primo massiccio scambio di prigionieri. Rientrato a Kiev anche il regista di Simferopoli, Oleg Sentsov, premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2018. Uno scambio che ha aperto una strada e che ha visto direttamente impegnata Mosca e che poi, a dicembre, ha favorito l'incontro di Parigi che ha messo di fronte Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin in un tavolo europeo coordinato da Emmanuel Macron e da Angela Merkel. Raffiche di flash per immortalare un momento che divide la società ucraina e i commentatori internazionali. Da una parte si parla di tradimento, di capitolazione alla forza. C'è invece chi pensa che sia un primo inevitabile passo, per quanto doloroso, nella lunga marcia dell'Ucraina democratica verso un futuro di stabilità. Sei anni fa, nel freddo dell'inverno 2014, la rivoluzione di Maidan nel centro di Kiev vedeva invece crepitare le armi automatiche. Studenti, operai, impiegati che chiedevano a gran voce l'accesso del paese all'Europa. Sei mesi prima il governo aveva firmato l'accordo di associazione, ma il 21 novembre il presidente Viktor Yanukovych lo aveva sospeso. Da lì l'invasione delle piazze, la protesta, Euromaidan. Nell'estremo est del paese, la grande città di Kharkiv, linguisticamente russa, ha vacillato sulle pressioni separatiste per poi tornare ad essere pienamente, completamente ucraina, con vista però sulla guerra che si combatte poche decine di chilometri più in là. Maria Avdieyeva è direttore del gruppo di studio sulla sicurezza, cresciuto nella locale università Karazin. Le ricordo come le concessioni che il presidente ha fatto per aprire il dialogo diretto con Mosca sono una forma di capitolazione. La prova che la Russia di Putin sta forse vincendo la guerra di resistenza nel Donbass? No, non credo che la Russia stia vincendo, perché dal 2014 l'identità nazionale dell'Ucraina è cresciuta molto e ora ci distinguiamo chiaramente dalla Russia. Nella stessa Kharkiv si parla il russo, ma ora ci sentiamo a tutti gli effetti ucraini. Now we feel distinctly very much Ukrainian. Kharkiv is, I would say, 40 kilometers from the Russian border. Kharkiv si trova a 40 chilometri dal confine russo ed è il paese senza guerra più vicino al Donbass. E tutti i soldati feriti si trovano di solito negli ospedali di Kharkiv, dove ci sono molti volontari a prestare le cure. Per il momento, tutte le organizzazioni della società civile cercano di mantenere le cose senza guerra, in modo che le persone non si abituino alla guerra. C'è una parte della società che tende ad abituarsi alla guerra, invece. Lo vediamo anche in Europa e questo non mi sembra normale. But I think it's not normal. Spesso, per cercare di descrivere quello che accade in questa parte orientale d'Europa, si parla di una sorta di scontro cultural-linguistico. Da una parte l'Occidente ucraino, con il suo antico passato asburgico, le influenze polacche, la lingua ucraina. Dall'altra, l'est del paese, lungo la sponda sinistra del grande fiume Dnipro, dove la lingua russa è dominante. D'altra parte, lei stessa, dottoressa Avdieva, ha nel russo la sua lingua madre. Gli esperti sono tutti della stessa opinione. La questione della lingua è stata politicizzata e utilizzata a fini populistici e politici. Prima questo era un non problema. Maria Avdieva sul futuro dell'Ucraina in Europa comunque non sembra avere dubbi. Io parlo molto con i giovani e loro vogliono far parte dell'Europa e sono sicura che in breve tempo entreremo nell'Unione Europea o vi stringeremo qualche alleanza, ma non riallacceremo i rapporti con la Russia. Non sono in molti ad essere scontenti perché, grazie all'esenzione dal visto, si può viaggiare liberamente anche in Europa. Insomma, è come se non esistessero confini. Ora però comprendiamo che il processo non sarà così rapido come speravamo inizialmente. Insomma, per quanto faticoso, tragico questo processo possa essere, la sensazione netta e diffusa è che proprio il sangue versato renda senza ritorno la scelta europea di questo paese, che è stato al centro della storia sovietica e dei suoi drammi. In quello che era il granaio dell'URSS e che ha visto scrivere negli anni 30 di Stalin la tragica pagina dell'Holodomor, la morte per fame, la proprietà terriera resta un elemento al centro del dibattito politico. I diritti sulla terra di questo che ancora oggi è uno dei colossi delle esportazioni di cereali nel mondo sono al centro di un dibattito molto animato. Ancora la scorsa settimana tafferugli in Parlamento proprio per la riforma agraria. Abbiamo chiesto al professor Fabrizio Zucca, che si occupa da anni proprio di queste tematiche, di aiutarci a capire in che maniera questa trasformazione possa essere uno dei fattori determinanti per il futuro e, si spera, la stabilità del paese. Ma io sono abbastanza d'accordo che in Ucraina sia in atto una trasformazione che la sta allontanando nettamente dalla Russia, dal sistema e dal modello russo. Vorrei dire che in parte questa cosa era comunque presente già da prima, il fatto comunque di avere in Russia delle leadership forti in cui il potere era fortemente in mano a una persona. In Ucraina questa cosa già prima del 2014 si era decisamente ridotta. Quindi questo sta portando comunque un cambiamento, unitamente al cambiamento che si sta attuando sia dal punto di vista delle riforme, riforme della giustizia, riforme delle amministrazioni pubbliche, il cambio, eventualmente la cancellazione della moratoria sulla proprietà dei terreni agricoli potrà accelerare in modo drammatico la crescita del paese. Quindi diciamo che tutta questa situazione sicuramente crea un forte solco tra quella che è la società e la situazione economico-sociale in Ucraina e quella che comunque in questo momento ancora permane in Russia. Perché l'Ucraina, lei ha detto, ha un potenziale enorme? Perché i territori e le terre coltivabili in Ucraina, sia per la qualità sia per l'estensione, la rendono già oggi uno dei primi produttori di materia prima di base in Europa, ma al mondo. Il problema che c'è stato in tutti questi anni è che è sempre mancata la possibilità di investire perché il terreno non poteva essere acquisito. Quanto è lontano questo momento in cui cambiano le regole che ancora il paese ha ereditato dall'Unione Sovietica? Ci sono tutte le grandi organizzazioni economiche e politiche, dalla Banca Mondiale all'Unione Europea, che spingono affinché questo avvenga. È lento perché c'è ancora un grande dibattito anche interno sul fatto che questa cosa sia opportuno oppure non sia opportuno fare. resta il fatto che senza questo passaggio, anche data la struttura dell'economia ucraina, sarà difficile dare una reale accelerata, nonostante quest'anno l'Ucraina sia uno dei paesi europei che ha la crescita più elevata del PIL. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.